due parole ancora su Via della Storta, che è una splendida metafora del fallimento dell'intervento dell'uomo sulla natura, perché alla fine è una strada che si fa largo in mezzo a una selva di erbacce incolte. Sembra che sia la natura a prevalere, in realtà poi ci sono queste case abusive, questi strani negozi un po' puzzolenti, questa gente un po' sudata che si affaccia dalle finestre. Poi anche i nomi delle località che si attraversano non sono male. Pantan Monastero è una delle borgate che si possono osservare ai lati, e sembra veramente un luogo fuori dallo spazio e dal tempo, non,